Il punto di Stefano Folli. Curioso come nell'era di internet e di Twitter, di cui tutti si dicono paladini, si svolga poi questa gara per stabilire chi ha riempito di più le piazze, come se una piazza piena fosse garanzia di successo elettorale. Non è così naturalmente, specie in un'elezione in cui l'affluenza rischia di essere molto bassa, come è avvenuto in Olanda, dove si è già votato. Meglio restare con i piedi per terra e preoccuparsi di cosa accadrà a partire da lunedì, quando lo scontro elettorale, con tutta la sua carica di intolleranza, dovrà lasciare spazio alla ragione. E il problema sarà come evitare che ancora una volta la vittima dei conflitti siano le riforme. Perché in un'epoca in cui le risorse economiche da distribuire sono pressoché inesistenti, le riforme sono la vera azione del buon governo. Ma riformare richiede un clima di relativa concordia politica, una convergenza almeno sugli obiettivi, che si tratti della Costituzione o della legge elettorale. La cosa peggiore sarebbe rinunciare a tutto per proiettarsi già verso le successive elezioni. È questa campagna elettorale permanente che rischia di soffocare l'Italia.